Buona serata a tutti e ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia nei nostri speciali del lunedì e del martedì dedicati alla riproposizione, al riascolto in versione integrale di eventi, incontri, convegni, conferenze che si sono svolte nel recente periodo nel territorio della Diocesi di Padova. Con oggi e domani completiamo l'ascolto degli incontri di approfondimento sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, uscire per annunciare. Quattro incontri che si sono svolti per la zona sud della diocesi nel mese di ottobre a Carceri d'Este e per la zona nord a Fellette di Romano De Zelino nel mese di novembre. L'iniziativa è stata promossa da Gruppo Antiochia, Ufficio Diocesano di Pastorale della Missione, Caritas Diocesana, Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Ufficio Diocesano di Pastorale della Comunicazione. Settimana scorsa abbiamo riproposto, e li ritrovate in podcast sul nostro sito bluradioveneto.it, gli interventi di Roberta Ronchiato sul tema Il Vangelo non si addomestica, l'anima biblica di Evangelii Gaudium, e di Manuel Rossi, dottorando in teologia pastorale, formatore dell'evangelizzazione, sul tema Una nuova visione di Chiesa, la dimensione profetica in Evangelii Gaudium. Stasera proponiamo e sentiamo la voce, l'intervento di Leopoldo Sandonà, docente di filosofia ed etica, sul tema La carne del Vangelo, Evangelii Gaudium in dialogo con la città e i poveri. Sono contento di essere qui questa sera perché anzitutto è una gioia essere in questo ciclo a più voci, donne, uomini, teologhe, teologi, e è una bella esperienza e anche un po' una novità, e penso che sia assolutamente interessante portare questo tipo di stile nei nostri gruppi, nelle nostre così attività. E sono anche felice perché una volta tanto ho fatto poca strada, nel senso che sono di un'altra diocesi ma sono a 4 km da qui, per cui essendo bassanese è anche così un territorio che conosco, e quindi mi piace essere qui con voi questa sera in maniera duplice. E mi hanno presentato brevemente, io non dico altro, mi occupo appunto di filosofia ed etica, diverse questioni di tipo etico, dalla bioetica all'etica economica, per cui cerco, anche se ho studiato forse anche troppo, dice qualcuno, però di tenere sempre la barra sulle questioni concrete. Ed è per questo che forse anche i miei amici mi hanno chiesto di affrontare il secondo e appunto il quarto capitolo dell'Evangelii Gaudium, che sono quelli, il secondo che appunto descrive alcune sfide del mondo attuale, e il quarto quello che mette in evidenza i legami tra quello che è l'annuncio del Vangelo e le implicazioni sociali. Quindi non possiamo separare il Vangelo dalle conseguenze di ambito sociale, di ambito etico, di ambito sia etico nel senso personale ma anche interpersonale. Questo è l'elemento centrale di questa sera, e infatti ci concentreremo, vedete, soprattutto nel secondo passaggio, quello che ho chiamato il cuore della proposta etica, sugli elementi sociali che derivano da questo annuncio, gli elementi sociali presenti in questo quarto capitolo dell'Evangelii Gaudium, e la grande sfida dei poveri. Il grande interrogativo è come riconoscere il povero, ma anche chi sono i poveri, perché ci sono tante tipologie di poveri e forse siamo tutti un po' poveri da certi punti di vista. L'introduzione ci porterà appunto a vedere queste sfide del mondo attuale con un bagno di realtà. Cioè, una dei grandi slogan, ma che non sono slogan, sono proprio incarnati da Papa Francesco, uno dei suoi quattro principi recita: la realtà è superiore all'idea. Allora, parlare di etica, di poveri, di mondo, significa quasi come in un battesimo immergersi nella realtà, non continuare a ragionare astrattamente, anche se forse dite tu sei uno che ha studiato filosofia quindi sei più abituato alle idee, però cercare veramente di stare dentro la realtà fino al collo e magari anche sopra. E l'ultimo passaggio, quindi l'introduzione, il cuore della proposta etica, sentieri che ne derivano. Cioè, se io mi immergo in questa realtà, che cosa cambia per me, che cosa cambia per le nostre comunità? E qui riprenderò questo tema che a me è caro, che è quello del dialogo, non tanto nel senso come a volte il dialogo è inteso, siccome litighiamo allora troviamo un piccolo accordo, un piccolo compromesso, quindi dialogo a ribasso, ma il dialogo come ne parla il Papa proprio in 20 numeri dell'Evangelii Gaudium, dal 238 al 258, in cui appunto descrive il dialogo in tutte le sfaccettature della realtà. Cioè il dialogo non è una specie di aspirina per stare meglio, per avere qualche compromesso, ma è l'essenza di ciò che siamo, tanto più in un mondo che è tutto interconnesso. Se non dialoghiamo, finiamo per fare le guerre. Quindi il dialogo certamente dobbiamo sentirlo come un imperativo etico, ma a breve e lungo termine sarà anche conveniente, perché altrimenti, forse essendo sposato, magari anche questo lo sperimento anche in famiglia, insomma, meglio dialogare, sennò tanto soccombiamo sempre noi mariti. Quindi ecco, vabbè. Il dialogo quindi e i sentieri che derivano dalla lettura della realtà e che ci riportano appunto alle sfide. Vedete che sotto ho scritto, adesso ho già perso più di tre quarti del pubblico, ma insomma, sottoscritto appunto dopo la relazione ci sarà anche spazio, come diceva Manuel, per questo lavoro di gruppo, che ritengo anche questa una modalità nuova di così interloquire con una parte comune. Perciò io cercherò di restare nei tempi e se andrò troppo oltre siete pregati di interrompermi. Ecco, un primo passaggio, quindi l'introduzione rispetto alle tematiche, partendo appunto dal secondo capitolo dell'Evangelii Gaudium, è questa cultura dello scarto. Papa Francesco dice al numero 53, con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nella periferia o senza potere, ma si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. Qui richiama quel termine che poi sarà presente molto nell'enciclica ecologica, la Laudato Si, della cultura dello scarto. E sotto vedete che ho citato questo sociologo molto famoso, Bauman, è l'unico autore un po' così accademico che cito stasera, e Bauman, che è questo sociologo della società liquida, il quale dice: la civiltà planetaria è oggi fatta solo di noi, quindi prendersi cura dell'altro è prendersi cura di noi. Bauman dice: noi siamo sempre vissuti in società che avevano il noi e il loro, c'era la tribù che si differenziava da un'altra tribù, c'era uno stato che si differenziava da un altro stato, i cattolici dai protestanti, i cristiani dagli islamici, gli europei dai non europei, cioè ci sono sempre state il noi e il loro, e nella nostra mentalità forse c'è ancora. Bauman dice: siccome è la prima volta nella storia del mondo in cui c'è un mondo fatto solo di noi, quindi l'umanità è globale, dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro. Non possono esistere degli avanzi, degli scarti che stanno fuori, ma dobbiamo mettere in circolo le energie di tutti. Questo, attenzione, questo vorrei sottolinearlo un attimo, non solo per essere buoni, cioè dire siamo buoni invece che essere cattivi, ma perché è inevitabile fare così, altrimenti in un mondo fatto di avanzi e di scarti, così come facciamo con la natura, che la sfruttiamo e la scartiamo, poi la natura si ribella. Così avviene anche nelle relazioni tra i popoli e tra le società. Quindi il primo sguardo di Papa Francesco è partire dalla cultura dello scarto per superare, includere i più poveri, perché con loro includiamo anche Cristo. Allora veniamo all'etica, questa disciplina che appunto fa capolino anche nelle parole del Papa. Una volta si parlava più di morale, oggi si parla più di etica. Etica significa semplicemente dimora oppure costume, abitudine, cioè come ci comportiamo. Però è interessante che etica significhi anche dimora, cioè la casa in cui siamo, la casa comune di cui parla Papa Francesco, è una casa che richiede dei comportamenti, delle regole, altrimenti la casa non funziona più. E dice Papa Francesco, spesso abbiamo rifiuto dell'etica e rifiuto di Dio. All'etica si guarda solo con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo umana, perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, perché condanna la manipolazione e la degradazione della persona. Cioè, in questo mondo dove siamo tutti noi, qual è il meccanismo che viene avanti? È un meccanismo, direbbero i filosofi, i sociologi, impersonale, anonimo. Non c'è più una relazione uno a uno, ma siamo in un grande meccanismo impersonale. Pensiamo alla pubblicità, pensiamo anche alla vita economica, al fatto che noi siamo dei tasselli e che veniamo interpellati come dei tasselli. In definitiva, dice il Papa, l'etica rimanda a un Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non manipolabile, persino pericoloso, in quanto chiama l'essere umano alla sua piena realizzazione. Cioè, il Papa sottolinea come parlare di etica non sia tanto un discorso moralistico, cioè devi fare questo o quest'altro, ma significa ritornare all'essenza della persona umana. Cioè, la persona è fatta di relazione. Se io in un mondo anonimo divento un numero, perdo qualcosa che appartiene al mio essere. Noi abbiamo tutti un nome, Manuel, Leopoldo, Gaetano e quant'altri. E il nome dice la nostra identità, quindi la mia identità è anche un po' padovana, evidentemente, se ho questo nome. E il nome dice la nostra identità. Se ci chiamassimo 1, 2, 3, 4, 5, vorrebbe dire che siamo dei numeri, che siamo soltanto dei tasselli. Quindi il Papa dice, dobbiamo recuperare l'etica, e dobbiamo recuperarla superando non solo l'anonimato, ma anche l'apparenza della nostra società, fatta di effimero, fatta di momenti immediati nelle relazioni con gli altri, ma anche nel lavoro, in tutte le dimensioni della nostra vita, tornando alla realtà. Come dicevo prima, delle grandi regole di Papa Francesco è: la realtà è superiore all'idea, che non è tanto uno slogan politico, ideologico, così, che si è inventato lui, ma dice, questo criterio è legato all'incarnazione della parola e alla sua messa in pratica. E cita la prima lettera di Giovanni, in questo potete riconoscere lo spirito di Dio, ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio. Questa sera appunto parliamo questo tema della carne, la carne di Cristo, torna a questo termine. Allora, essere nella realtà, dicevamo prima, è immergersi, per usare un termine un po' battesimale, ma è anche incarnarsi, per usare un termine che è il perno, il cuore di tutta la nostra fede. Il criterio di realtà di una parola già incarnata e che sempre cerca di incarnarsi è essenziale all'evangelizzazione. Cioè, se noi non torniamo alla realtà, noi ci chiuderemo nelle nostre ideologie, magari nel rimpianto di un tempo che non c'è più, ci chiuderemo nelle nostre filosofie, nelle nostre posizioni politiche, personali, eccetera. Faremo magari della stessa evangelizzazione solo un pulpito da cui ognuno può predicare le sue idee, come diceva Paolo, poi questo porta le comunità a dividersi, perché appunto la Chiesa non è di Paolo, di Apollo, di Cefa, ma è di Dio. Quindi questo ritorno alla realtà, questa necessità dell'etica per evitare la cultura dello scarto, dentro, dice il Papa, un mondo secolarizzato. E qui non lo dice sicuramente anche mettendo in evidenza alcuni aspetti negativi, ma diciamo fotografando il mondo in cui siamo, al numero 64. Il processo di secolarizzazione tende a ridurre la fede e la Chiesa all'ambito privato e intimo. Con la negazione di ogni trascendenza ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale. Quando dicono che questo Papa è buonista, invece va giù proprio anche un po' di brutto e sociale, peccato personale e sociale, e un progressivo aumento del relativismo che danno luogo ad un disorientamento generalizzato. Specialmente, questo è molto importante per tutti noi che lavoriamo in ambito pastorale, nella fase dell'adolescenza e della giovinezza, tanto vulnerabile dai cambiamenti. Quindi, qual è il punto fondamentale? Che non solo il rischio delle comunità cristiane è quello di chiudersi nell'ideologia, in idee astratte, di non stare nella realtà, ma che anche il mondo ti dice: tu cristiano, pratica pure la tua fede, però stai a casa tua, stai nel privato, stai nella tua intimità, non pensare di fare discorsi pubblici, tantomeno politici, perché altrimenti vuol dire che vieni meno alla laicità dello Stato. C'è stato, dice il Papa, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale. Qui lo dico subito perché è un tema che mi sta a cuore. E personale e sociale cosa sta ad indicare? Che l'etica è una sola. Per tanti anni abbiamo forse diviso l'etica. C'è chi era un po' più, passatemi il termine, conservatore, che guardava più ai peccati personali e meno a quelli sociali. C'è chi era un po' più progressista e guardava alla parte sociale, ma non guardava magari ad alcune questioni di tipo, per esempio, bioetico. Ecco, il Papa ci dice: tutto è connesso, lo dice nella Laudato Si, al numero 117, tutto è connesso, e io non posso parlare di un embrione se non parlo anche dei disoccupati, non posso parlare di un disabile se non mi prendo a cuore la foresta e anche l'ecologia. Quindi l'aspetto etico è unitario, ci sono delle specificità, ma non possiamo essere schizofrenici. Quindi questo mondo secolare ci riduce al privato, ma abbiamo bisogno in realtà di ripartire e trovare dei luoghi. Quindi vedete che l'analisi del Papa è per certi aspetti impietosa, ma cerca subito anche di vedere delle risorse per ripartire. E ripartire anzitutto dalla città. Qui il Papa non si sta tanto ad indicare solo le metropoli, a mio parere, ma tutta la dimensione urbana. Dice: è interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza in una città, cioè Gerusalemme, la Gerusalemme celeste anche dell'Apocalisse. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Cioè la contemplazione non dobbiamo lasciarla solo, diciamo, nella sfera più liturgica o più meditativa, che è centrale per la vita di fede, ma dobbiamo portarla, dice Papa Francesco, nelle case, nelle strade, nelle piazze. Nuove culture continuano a generarsi in queste enormi geografie umane, dove il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma riceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi. Cioè il Papa dice: siamo noi creatori di questo senso, di questo valore? Sì, ma dobbiamo anche essere attenti, con una vera laicità, al fatto che nelle nostre città ci sono già dei nuovi germogli che si generano. Magari non sono germogli che hanno l'etichetta di cattolico, di cristiano, di chi frequenta, di credente, ma dobbiamo lavorare con questi per offrire nuovi orientamenti di vita. Vedete che dice: dobbiamo riscoprire queste geografie umane. Cioè la geografia non è solo una questione di paesi, di città, ma ci sono tanti luoghi nelle nostre relazioni che dobbiamo riscoprire, che dobbiamo abitare. Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Quindi ripartire dalla città e poi soprattutto, questo è un po' il tema centrale per stasera, essere risvegliati dal povero. Il Vangelo ci invita a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro. Per uscire dall'anonimato della nostra società devo farmi interrogare dall'altro, con la sua presenza fisica, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Qui sembra quasi richiamare l'immagine di Giacobbe che lotta con Dio. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé. Il Figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Quindi vedete che, un po' come è stato detto in tutto quest'anno della misericordia, il contatto con l'altro non è pietismo. Cioè, io sono buono perché il povero mi fa pena, allora in qualche modo gli vado incontro. Ma è l'incontro che risveglia degli elementi che altrimenti sarebbero assopiti in questo anonimato. In quel corpo a corpo col povero, io ritrovo l'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne. Se io credo in questa incarnazione, credo in questa realtà, non posso esimermi dal servizio. Ecco che vedete che la carità per la comunità cristiana, l'incontro con i poveri, non è certamente una forma di cooperazione, di solidarietà, quasi potremmo dire, passatemi il termine, anche di business. Il Papa ha detto appena eletto: la Chiesa non è una ONG che fa tante cose sociali, ma fa tante cose sociali perché vede in queste cose il volto di Dio e il volto del Figlio di Dio. Quindi siamo alla fine del primo passaggio, andare incontro a questi scarti, a questi avanzi, perché in essi si riconosce il volto di Cristo e nello stesso tempo ci si immerge nella realtà. Quindi non è solo un'opzione religiosa, ma è anche, potremmo dire, questo incontro con il povero, forse una forma di realismo. E pongo qui la prima domanda, che poi le ripeterò prima della fine per il lavoro dei gruppi. Stanchi della morale, perché non vogliamo sentire parlare di moralismo, abbiamo buttato via anche l'etica? Come parlare oggi dell'etica nelle nostre comunità? Come viverla in quelle che appunto il Papa chiama geografie umane rinnovate? Qui, per fare qualche esempio, cosa vuol dire geografia umana? Che magari una volta avevamo delle appartenenze molto chiare, c'era la parrocchia, c'erano dei movimenti, c'erano delle associazioni, oggi continuano ad esserci per fortuna, ma ci sono tanti ambienti lavorativi, professionali, pensiamo anche all'ambiente dello sport, che sono delle geografie umane in cui portare la parola di Dio e in cui portare questo messaggio. Quindi parlare di etica non è solo un discorso accademico. Si diceva prima dell'incontro con alcuni amici qui, oggi è difficile vivere l'etica, perché io posso professionalmente essere messo continuamente alla prova. Per esempio, se sono in alcune professioni che mi interrogano, pensate un medico, ma pensate anche a una persona che lavora nel mondo dell'economia e che magari si trova a fare delle scelte anche sulla pelle di altri. Non parliamo dell'ambito accademico, perché insomma si potrebbero aprire tante parentesi poco etiche, ma insomma ognuno ha i suoi problemi. Quindi siamo al cuore poi della proposta etica. Se il mondo attuale ci porta a guardare in faccia al povero, non solo, ripeto, per una scelta di tipo religioso, ma anche proprio come immersione nella realtà, chi è veramente questo povero? E quindi andiamo al cuore della proposta etica. Nel povero incontriamo Cristo. Cristo si è fatto povero ed è stato vicino ai poveri. Dalla nostra fede, da questa fede deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale. Vedete questa coppia: Cristo si è fatto povero per essere vicino ai poveri. Non è andato accanto al povero con paternalismo, con pietismo, ma si è fatto lui stesso povero. Per la Chiesa l'opzione per i poveri, questo è secondo me forse il passaggio più importante di tutta la serata, ma sono tanti i testi del Papa importanti, l'opzione per i poveri per la Chiesa è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Sentite, anche in questi giorni ne dicono su di tutti i colori al Papa, dicendo: ma fa delle scelte di sinistra, di destra, ognuno ha lo etichetta a modo suo. Il Papa dice: andare con i poveri è una scelta della nostra fede, è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Quindi non è questione di ideologia, è questione di essere in linea con la nostra fede. Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale. Quindi il cristiano non può ritirarsi. L'annuncio implica che si interessi anche della società. Non può fare l'annuncio cristiano e poi lasciare che la società vada per conto proprio. Ma insieme, dice il Papa, la Chiesa non è una ONG. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma un'attenzione rivolta all'altro. Quindi il cristiano, da un lato, non può fare a meno, potremmo dire, della carità, dall'altro deve capire che questa carità non è solo costruire un'impresa sociale, costruire una promozione, un'assistenza, ma andare oltre. Insieme il Papa dice in questi numeri che nessun cristiano può esimersi. Cioè, io non posso dire: beh, ci pensa la Caritas, ci pensa questo, ci pensa quell'altro. L'andare incontro al più povero è un qualcosa che appartiene a tutti i cristiani. E qui sottolineo quanto dicevo prima. Il Papa fa tutto un elenco di poveri, di esclusi, di figure sofferenti, di avanzi della società. E qui vedete il titolo che ho messo è l'unità delle questioni etiche. Cioè, quanto dicevo prima, io non posso parlare di alcune questioni della persona senza parlare della società e viceversa. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà, in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta a vantaggi tangibili. I senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati. Sottolineo quando lui dice nuove forme di povertà. C'è una povertà tra le generazioni, c'è una povertà magari nell'anzianità, ci sono tante forme di povertà che ogni territorio sperimenta, forse al di là della sola povertà materiale. Pensiamo alla depressione o alla chiusura, alla solitudine che attanaglia tante persone oggi. Magari uno materialmente ha tutto, però ha delle povertà dal punto di vista delle relazioni enormi. Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e i più innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole. Quindi vedete l'unità del Papa che ci spinge per un verso sulle questioni tradizionalmente, diciamo così, sociali, e sulle questioni anche, potremmo dire, di tipo bioetico. Questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Cioè, se io difendo il bambino che deve ancora nascere, difenderò poi tutti gli altri diritti umani. La persona, ecco qui, non più il sistema anonimo, è un fine in se stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Ci sono anche altri esseri fragili e indifesi che molte volte rimangono alla mercé degli interessi economici. Mi riferisco all'insieme della creazione. Quindi problemi sociali, problemi bioetici, problemi anche ambientali. La creazione in alcune situazioni è il povero per eccellenza. Nessuno può esimersi. Incontrare il povero è essere costantemente risvegliati a quell'attenzione verso la realtà, verso l'altro, che il Papa ci indica. Qui ho scritto un po' provocatoriamente: i poveri sono il nostro corso di aggiornamento costante. Cioè il povero mi richiama con tutta la sua storia, con la sua biografia, con i suoi problemi, mi richiama alla realtà. Non so se vi è mai capitato magari di incontrare, di parlare con un bisognoso e dite, ma insomma magari sono dei giorni in cui ho tanti altri pensieri, parlando con questa persona dico, beh, forse devo ridimensionarli un po' questi pensieri, perché c'è chi veramente di pensieri ne ha molti più di me. Allora questa esperienza forse ci fa capire che nessuno può essere lontano dai poveri. Le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente sentita negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali e persino ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene, nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. Quindi certamente ci saranno degli uffici, ci saranno delle parti della nostra pastorale più dedicate alle missioni, alla carità, eccetera, però i poveri devono essere al centro per tutti noi. Allora, in questo secondo passaggio, noi abbiamo visto che il povero lo troviamo nel volto di Cristo, ma il povero anche ci riporta a Cristo. L'azione della Chiesa non può restare nel privato, della comunità cristiana, della Chiesa che siamo tutti noi, non può restare nel privato, ma deve in qualche modo essere in pari con la realtà e esercitare un'azione per i più poveri, e questa azione implica un'unità delle questioni etiche, questioni bioetiche, questioni sociali, questioni ambientali. I poveri sono al centro dell'attenzione di ogni cristiano. I poveri, questa è un po' la conclusione del Papa, sono Cristo stesso. Allora, come io separo le membra di Cristo se faccio uno scandalo in una comunità perché divido la comunità, se noi ci separiamo dai poveri, ci separiamo dalle membra di Cristo, cioè ci separiamo dalla carne di Cristo. E allora le domande che vengono alla fine di questo secondo passaggio sono: i poveri sono davvero al centro della nostra vita cristiana? Oppure anche per il mondo cristiano la carità è diventata una specie di business che tappa le falle magari spesso di qualcosa in cui lo Stato non può più arrivare perché non ha più soldi e quindi magari c'è la tal azione caritativa? Seconda domanda, sono un po' provocatorie ma insomma è tanto per animare la discussione. C'è il rischio di dividere la carne di Cristo vedendo solo una parte delle questioni etiche in campo? Cioè, se noi sovrapponiamo, e così è successo anche nel nostro paese purtroppo, alla riflessione teologica che anche il Papa ci ha fatto, sovrapponiamo le idee di partito, le idee di parte, le idee filosofiche, ideologiche che ognuno può avere, noi vediamo solo una parte delle questioni in campo e quindi divido la carne di Cristo perché non vedo più la totalità delle questioni, ma finisco per strappare quasi questa carne, quindi di strumentalizzare anche i poveri in nome di una idea, in nome di un qualcosa che voglio perseguire. La terza parte, quindi, se abbiamo visto il contesto della situazione, diciamo, globale, che non può permetterci di voltare la testa dall'altra parte, e se questo incontro con l'altro che ci risveglia è l'incontro con Cristo, con la carne di Cristo, l'etica diventa un banco di prova, spero che si legga bene, un banco di prova per le nostre comunità, per costruire qualcosa di importante. Questa è la parte finale di quel quarto capitolo, dove troviamo due aspetti importanti. Il dialogo come costruttore della pace sociale e quelle quattro regole che brevemente ricorderemo e che sono un po' delle regole che qualcuno dice accompagnano tutto l'insegnamento di Papa Francesco. Il dialogo, dice Papa Francesco, non deve mai trascurare il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che porta la Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani. Dialogare, ha detto anche per esempio al convegno della Chiesa italiana a Firenze, non è cercare compromessi, anzi, dialogare implica spesso litigare. Implica litigare per mettere sul banco anche le cose che ci dividono. La vera apertura, però, dice il Papa, non è un sincretismo, cioè una specie di minestrone dove tutto si confonde. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni, con un'identità chiara e gioiosa, quindi gioiosa, ad alcuni bisognerebbe ricordarlo, questo gioioso, non un'identità chiusa, arrabbiata, come abbiamo sentito anche in questi giorni, ma aperti a comprendere quelle dell'altro, le idee dell'altro. Non ci serve, dice il Papa, un'apertura diplomatica, vuol dire che manca poco tempo alla fine, se è saltato così, ci richiama alla conclusione, non ci serve un'apertura diplomatica che dice sì a tutto per evitare i problemi, come a volte si fa anche in casa, perché sarebbe un modo di ingannare l'altro e di negargli il bene che uno ha ricevuto, come un dono da condividere generosamente. L'evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dall'opporsi tra di loro, si sostengono e si alimentano. Quindi dialogare, questo è punto fondamentale, è uno stile che possiamo acquisire nella vita della Chiesa, ma appunto senza per questo dover rinunciare alle proprie convinzioni, ma essere gioiosamente aperti anche alle convinzioni dell'altro. E qui Papa Francesco, proprio per darci un modello di dialogo per il futuro, ci dà queste quattro regole fondamentali. La prima: il tutto è superiore alla parte. Io qui non le cito nell'ordine che ha lui nel testo, ma mi sembra importante sottolinearle. Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante e non vi sono differenze. Il modello è il poliedro che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Vi ricordate, prima parlavamo di un mondo anonimo. Questo tutto di cui parla il Papa è un tutto in cui ognuno porta la sua peculiarità. In alcuni passaggi prima parlava anche dei popoli indigeni, questi popoli che vengono appiattiti dalla globalizzazione, che vengono distrutti. Papa dice: ognuno mantiene la sua originalità. Sia l'azione pastorale che l'azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da portare che non deve andare perduto. Cioè, ogni persona è una risorsa. Proprio perché non c'è più qualcuno al di fuori di questo noi, tutti possono portare qualcosa. Quindi il tutto è superiore alla parte. Ma anche, dice il Papa, il tempo è superiore allo spazio. Attenzione, quando lui dice tutto superiore alla parte, tempo superiore allo spazio, non vuol dire che la parte, diciamo, subordinata non esiste. Quindi anche, appunto, il tutto è più importante della parte, ma la parte ha un suo peso. Cosa vuol dire che il tempo è superiore allo spazio? Che spesso, dice il Papa, noi abbiamo voluto riempire degli spazi, occupare del potere, occupare dei luoghi. Si tratta invece, dice il Papa, di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone, gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Cioè, il Papa dice: apriamo dei processi. In fondo quello che lui stesso sta facendo, l'ha detto anche più volte nelle interviste, non è qualcosa di cui lui vedrà la realizzazione, ma dice: apriamo dei processi. Questo è un punto molto importante, proprio perché tocca, vi dico solo questo, dal punto di vista così più della disciplina che insegno, tocca un punto fondamentale dell'etica contemporanea, che un tempo l'etica era legata all'azione qui e ora. Cioè, io adesso do un pugno a Manuel, lui giustamente poi me ne darà quattro, per cui andrà male, però è un'azione nel qui e ora. L'etica contemporanea dice: io devo sempre più essere attento a delle azioni che hanno, ovviamente questo dopo la bomba atomica, dopo l'inquinamento, eccetera, delle azioni che hanno delle ripercussioni nel tempo e nello spazio. Cioè io inquino qua e lo vedo a 30 km di distanza. Io faccio uso di alcune sostanze e lo vedo magari fra 20 anni nel mio fisico. Allora, l'etica contemporanea ha questa attenzione e il Papa infatti dice: il tempo è superiore allo spazio. Cioè, apriamo dei processi e anche, direi, aggiungerei, preveniamo dei processi negativi. Perché noi sappiamo, l'abbiamo visto anche nel nostro paese, ci sono dei processi negativi che sono stati lasciati proliferare e poi, dopo magari decenni, ci si accorge delle difficoltà. Il terzo principio, l'unità è superiore al conflitto. Appunto, non in senso irenistico. Ma dice il Papa, se siamo in questo noi, dobbiamo mantenere il valore dell'unità. La solidarietà, intesa nel suo significato più profondo, e di sfida diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. E infine torniamo alla realtà superiore all'idea che avevamo già citato. Cioè ci siamo immersi nella realtà, ci siamo fatti, passatemi il termine un po' ardito, ci siamo fatti battezzare dal povero che ci riporta all'identità della nostra fede e appunto torniamo a questa realtà. Non possiamo semplicemente, incontrando il povero, dire: ok, adesso sono dentro la realtà e magari torno a fare gli errori di prima. Ma questa realtà deve essere, proprio perché è parola incarnata e che sempre cerca di incarnarsi, deve essere la nostra stella polare, cioè stare dentro questa realtà per costruire un domani diverso. Un domani diverso, ma anche aprendo lo spazio a quanto lo spirito ci vuole dire. Quindi, terzo passaggio del nostro intervento, che cosa dice? Se noi abbiamo visto questo scenario, abbiamo incontrato il povero e nel povero Cristo, possiamo trovare dei modelli, delle regole, delle indicazioni che Papa Francesco ci dà per costruire a partire da questo incontro un futuro di tipo diverso. Questi due modelli sono da un lato il dialogo e dall'altro queste quattro regole che appunto ci accompagnano. La realtà è superiore all'idea, l'unità è superiore al conflitto, il tempo è superiore allo spazio e il tutto è superiore alla parte. Siamo così, visto che appunto il tempo è superiore allo spazio, quindi il tempo è passato. Siamo così anche alla terza domanda. Come pensare nelle nostre comunità un'autentica pratica del dialogo a più livelli? Cioè quel dialogo di cui parla Papa Francesco avviene veramente? O dobbiamo reimparare a camminare, iniziare nuovi processi? Che cosa intendiamo con dialogo? Tante volte, appunto, Papa Francesco è preoccupato di dire il dialogo e l'annuncio vanno di pari passo. Ci sono stati anche dei documenti molto importanti negli anni 80 e 90 su questo. Perché? Perché sembrava a un certo punto che se io dialogavo non annunciavo più il Vangelo. Se annunciavo il Vangelo lo dovevo fare sempre come con una nuova crociata e non riuscivo più a dialogare con gli altri. Ecco che la riflessione della Chiesa e della teologia ha detto: dialogo e annuncio vanno insieme. Cosa intendiamo con dialogo? Solo un appiattimento delle differenze o un gioioso confronto con l'altro in cui io apprendo dall'altro ma porto anche quelle che sono le mie specificità? Ecco, queste sono le nostre tre domande, quindi sono le tre domande che sintetizzano un po' il percorso che abbiamo fatto. La centralità dell'etica in questo scenario globale, e appunto la prima domanda era: stanchi della morale, abbiamo buttato via anche l'etica? E è un qualcosa l'etica che abbiamo lasciato o nel privato oppure abbiamo lasciato che se ne occupino altri. E dall'altro, il secondo punto, l'incontro con Cristo. Se Cristo si incarna nel povero e se il povero ci riporta alla nostra realtà, dobbiamo chiederci, i poveri sono davvero al centro della nostra vita cristiana oppure la carità è un'appendice, è un business, è qualcosa che deve fare qualcun altro? E infine, appunto, come pensare nelle nostre comunità il dialogo? La provocazione che vi lancio in conclusione è anche questa. Queste quattro regole del Papa sono regole applicabili per noi? Possiamo cercare di capire come possiamo applicarle? Oppure sono regole irrealizzabili? In fondo, lui stesso a Firenze, forse anche gli incontri che abbiamo fatto nascono da questo, ha detto: io non do alla Chiesa italiana dei consigli, dico solo però un po' di rileggersi l'Evangelii Gaudium, quindi qualche consiglio l'ha dato. Allora, queste quattro regole sono qualcosa che possono veramente servirci? Non è una domanda a cui ho una risposta preconfezionata, però vi invito a ritornare con calma su queste quattro regole, perché veramente possono fare un gran bene a ognuno di noi e anche a tutti i nostri impegni comunitari. E riprendo soltanto così come cappello anche finale: per incontrare i poveri noi per primi dobbiamo essere poveri, quindi ci deve essere una spogliazione. Gesù si è fatto povero per essere accanto ai poveri, e questo è quello che ci viene ricordato non solo sul piano materiale ma anche sul piano proprio quasi teologico. Si è spogliato e si è svuotato di se stesso. E l'altro aspetto che veniva sottolineato, cioè la povertà non è la miseria, e mi sembra veramente una cosa molto bella questa, che veramente mi porto via anch'io. Gesù ci ha insegnato la povertà e non la miseria, e la povertà dà pulizia, una parola che non è venuta fuori stasera ma che collegavo a questo bellissimo intervento, è la parola bellezza. E tante volte noi siamo abituati a pensare anche al povero, ai poveri, li ricolleghiamo magari per le loro condizioni fisiche, materiali, eccetera, a qualcosa di brutto, mentre in realtà qui viene fuori una pulizia, un ordine, una bellezza, mi viene da dire, che a volte il mondo materialmente ricco non ha più. E forse una delle cose che stasera sono emerse, non solo dal mio intervento ma da questo dialogo, è veramente il fatto che, siccome siamo diventati troppo materialisti, noi abbiamo valutato la ricchezza e la povertà solo in termini economici e materiali. E quindi sia per la povertà che per la ricchezza dobbiamo riscoprire tutto ciò che va al di là della materia, senza buttar via la materia, perché poi ovviamente abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di vestirci, di spostarci, eccetera. Però certamente non siamo solo materia. Collegata alla bellezza mi viene da dire la gioia. Prima parliamo della Evangelii Gaudium, quindi Papa Francesco dice: dialoghiamo con gioia. Ecco, direi che in questo amare la povertà è anche qualcosa che ci dà gioia, nel senso che ci fa essere gioiosi e non rinchiusi in idee, in ideologie, in pensieri negativi. E l'altro, diceva qualcuno nel primo intervento, non riusciamo a riconoscere l'altro come carne di Cristo perché non siamo ancora noi consapevoli che nella nostra carne vive Cristo. Questo mi sembra un aspetto molto importante, perché in fondo abbiamo sempre anche un po' diviso la liturgia, la devozione, quella che è la vita, diciamo, spirituale, passatemi il termine, con la carità. Ecco, il Papa ci aiuta a riunire non solo le varie parti dell'etica, ma anche questi mondi. Cioè, io incontrando l'altro non solo faccio un corso di aggiornamento, come avevo detto prima, ma forse faccio anche gli esercizi spirituali, cioè vengo riportato proprio a dei fondamenti anche della fede. E l'umiltà nel dialogo, questo è un aspetto che sottolineo perché è stato citato da uno degli ultimi interventi, e penso che questo sia un fatto assolutamente fondamentale. dice il Papa, abbiamo occupato spazi più che aprire processi. Ecco, tante volte siamo arroccati su piccoli spazi, come gruppo, come singolo, come attività. Abbiamo paura che qualcuno ce li porti via, mentre abbiamo la necessità, nell'umiltà, di aprire dei veri processi. E poi direi, per concludere, questa suggestione in uno dei primi interventi del cartello e della strada, che mi è piaciuto molto, poi chiederò i diritti d'autore, ma lo riutilizzerò a lezione perché è veramente molto bello per spiegare il rapporto tra la legge e l'etica. Ecco, forse ci siamo troppo soffermati sui cartelli e guardando i cartelli abbiamo perso di vista la strada. Allora, certamente rimettiamoci a camminare, dobbiamo stare attenti, seguire le indicazioni, però nello stesso tempo anche capire quella che è la bellezza di questa strada. Cioè, se noi ci soffermiamo solo sul cartello, alla fine troveremo poca novità. Quel cartello lo conosciamo, lo vediamo, ce ne sono tanti uguali di segnali di indicazione. Il paesaggio, le geografie umane che abbiamo attorno, come dice il Papa, sono ognuna particolare, peculiare, ognuna bellissima. Certo che nel mondo ci sono le Dolomiti e ci sono i paesaggi più belli, ma dobbiamo appunto come cristiani anche saperci calare in quei paesaggi umani peggiori, quelli che sono scartati dalla società. Ecco, mi sembra che sia stato un esercizio per ripensare come mettiamo i poveri al centro delle nostre comunità e mi sembra che la risposta da tutti i gruppi è che non facciamo abbastanza per questo, come li mettiamo e come ognuno di noi può farsi interrogare, perché altrimenti rischiamo di così rovesciare sempre sugli altri quella che è una responsabilità. Allora ognuno come può rimetterli al centro? Questo penso sia la grande domanda che ci portiamo via stasera. Era il professor Leopoldo Sandonà, docente di filosofia ed etica, intervenuto nel terzo incontro dedicato agli approfondimenti sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Sandonà è intervenuto sul tema La carne del Vangelo, Evangelii Gaudium in dialogo con la città e i poveri. Domani sera, sempre dalle ore 21, completeremo l'ascolto con la quarta serata e sentiremo domani gli interventi di Assunta Steccanella, docente di teologia pastorale, di Barbara Marchica, dottoranda in teologia counselor pastorale, sul nuovo stile pastorale, personale e comunitario e la svolta missionaria di Evangelii Gaudium. Ritroverete poi sul nostro sito bluradioveneto.it gli audio appunto integrali di queste serate e delle prossime che andremo a proporre. Didaici Regia, Mirko Cavallini in studio, grazie per l'ascolto e buona serata.